fammi le mie cose, le mie ripaci, piangi delle mie pene e poi mi naci. Credimi, tu sei stolto e non ti intendo, sei stolto e non ti intendo. Rami le mie catene e mi rinfacci, piangi delle mie pene e poi mi naci. Credimi, tu sei stolto e non ti intendo, piangi delle mie pene, rami le mie catene e poi mi rinfacci, mi minacci. Credimi, tu sei stolto e non ti intendo, sei stolto e non ti intendo. Sai che io son fede al primo affetto, né mai sarò crude al primo getto. Tegnami ancora, né la cagion comprendono, non comprendono, né la cagion sei stolto e non ti intendo.